Ci possiamo accomodare. Io lo so che voi vi aspettavate il terzo canto. Vi ho accolti in contropiede. Il terzo canto lo avremo a fine messaggio, perché in realtà devo dirvi una cosa. Da quello che abbiamo cantato e dichiarato con i brani che la band ha scelto, che Marco ha scelto per noi, puoi spegnere proprio qui la spia, non mi serve. Da quello che abbiamo già dichiarato al nostro Signore Gesù, mi vedete bene? Vedete bene la lavagna? Potremmo già in realtà aver concluso il nostro messaggio di oggi, perché abbiamo esattamente cantato le parole della parola di Dio che andremo a leggere insieme questa mattina. E sapete, quest'anno stiamo meditando proprio sull'aspetto del grande comandamento. I pastori ci hanno lanciato la sfida di guardare a Gesù e di non guardare a noi stessi, di guardare alle persone intorno a noi e di non guardare a noi stessi. E Marco, capitolo 12, dal verso 30 al verso 31, dice proprio questo Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. E il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento maggiore di questi. E nelle puntate precedenti, in cui ci siamo visti insieme, dove io ho condiviso il mio cuore su questo tema, oggi parleremo di Voce del Verbo Amare 4.0. Questa è tipo una miniserie di Netflix, no? Che ha poche puntate, perché l'anno sta per finire. Però nelle puntate precedenti abbiamo sottolineato come il nostro amare Dio non parte da noi, vi ricordate? Non è la nostra iniziativa, ma il nostro amare Dio è la sua iniziativa. Noi possiamo amare Dio perché il nostro amarlo è un riflesso del suo amare noi. Vi ricordate? Abbiamo fatto un bellissimo grafico che oggi andiamo a riprendere insieme. Siete pronti con me? Ho i pennarelli colorati che ci faranno vedere le cose giuste nel momento giusto. Eternità. Abbiamo il nostro Dio che è eterno. Lui è sempre esistito. Ma ve lo immaginate che qualora per separare il buio e creare la luce lui avesse fatto una grande esplosione che noi diciamo che sia il Big Bang, e non lo sappiamo perché nessuno di noi c'era, quindi non sappiamo come è accaduto, ma lui c'era e lo sa come è accaduto, lui è eterno. Che c'è un Big Bang e lui c'era prima del Big Bang. Magari è lui che l'ha fatto questo Big Bang, parentesi. Questo Dio eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo, in eternità si amano, vivono tu insieme, sono uno e sono tre. E c'è una perpetua relazione di amore. Alla luce di questa relazione di amore perpetua, amano noi e ci creano a loro immagine e somiglianza. Solo che noi siamo a volte così un po', si può dire, cretini, che non ci crediamo alle cose belle, ci crediamo di più alle cose brutte. E quindi quando qualcuno ci è venuto a dire: no, tu mica sei come a Dio, devi mangiare la mela, perché se mangerai la mela, che non è la mela, capite il senso di quello che sto dicendo, allora sarai come Dio. E quindi abbiamo disubbidito. Nel nostro disubbidire abbiamo creato una separazione. In quella relazione che avevamo nel giardino dell'Eden, Dio passeggiava con noi nel giardino dell'Eden, in una relazione di un amore eterno che arrivava da eternità, che sarebbe prolungato per l'eternità. E noi abbiamo deciso che sapevamo fare meglio, che sapevamo fare diverso, che non ci fidavamo di Lui e abbiamo disubbidito. Ma cosa è successo? Non ci ha lasciati nella nostra disubbidienza, abbandonati a noi stessi, senza poter avere più una relazione con Lui. E quindi dall'eternità il Padre ha scelto Abramo. E lo ha scelto per fede, perché Abramo era come tutti gli altri popoli e ha detto: attraverso di te, attraverso quello che io vedo della tua vita, di quello che io posso fare attraverso di te, tu sarai una nazione, tu sarai un popolo, tu sarai il popolo di Israele, tu sarai la mia sposa. Lo vedremo più avanti. Tu sarai una generazione che spiegherà a tutti gli altri che sono rimasti disubbidienti la bellezza di avere me, che sono il creatore di tutto, come padre, come sposo, come marito, come colui che ti ama e che vive con te ogni giorno. Questo è quello che è accaduto. E poi cos'è successo? Non era sufficiente tutto quello che lui aveva creato e pensato per il popolo di Israele. E da eternità passate a eternità future, che cosa è successo? Il figlio è sceso. E Gesù, Cristo, dall'eternità in cui risiedeva, dal trono di Dio in cui risiedeva, ha deciso di prendere una forma umana che noi potessimo guardare, che noi potessimo toccare e alla quale noi ci potessimo relazionare. Ed è sceso il figlio su questa terra e ha camminato in mezzo a noi, dice Giovanni. E poi cos'è successo? Ha sacrificato se stesso. Ha detto: ok, tutti questi sacrifici che facevate per ricordarvi che Dio è santo e per andare da Lui e ricordarvi che voi siete cosa santa come Lui è santo, non servono più. Sono io, come abbiamo cantato. Lo abbiamo dichiarato in ogni frase che abbiamo cantato questa mattina. E Lui si è sacrificato, non si è solo sacrificato, ma è ritornato su al Padre. E quando è ritornato su al Padre ha detto: aspettate, c'è una promessa che io vi do. È meglio per voi che io me ne vada, perché io vi manderò lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è sceso. E che cosa ha fatto lo Spirito Santo quando è sceso? Ha costituito la Chiesa. Ha costituito la Chiesa. E che cos'è la Chiesa? La Chiesa è la sua sposa. È la sua sposa. Tante volte la parola di Dio ci parla della Chiesa come la sua sposa. Una sposa che è fatta di tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutte le tribù. È per quello che noi oggi siamo cristiani. È per quello che noi oggi possiamo credere in Yahweh, nel Dio degli ebrei. Perché Lui non era solo per loro, ma era per tutta l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo. Ma Gesù è lo sposo solo di una sposa. Perché nell'amare il mondo Dio si è appartato una sposa. Dio si è scelto una moglie per Lui, che siamo noi. E che cosa dice la parola di Dio? Che Gesù ritornerà. E il Figlio ritornerà per avere una relazione eterna con la sposa. E cosa accadrà quando Lui ritornerà? Le nozze dell'agnello arriveranno. E noi ci sposeremo con Cristo. E nuovi cieli e nuova terra verranno creati. E per sempre in quella relazione eterna del loro amore, io e te saremo inglobati perché siamo la sua sposa. È questo l'amore di cui stiamo parlando. Tu sei una sposa bellissima. Sapete, quando ti devi sposare, per il giorno delle nozze ci sono tutti dei preparativi, che devi fare detox, che non si capisce, dalla testa ai piedi ti devi andare a restaurare. La nostra vita su questa terra, in funzione dell'eternità, fratelli e sorelle, è l'equivalente di una preparazione nostra ad arrivare a quel giorno delle nozze dell'agnello, splendenti, perché Lui ci ha redento, perché Lui ci ha salvato. E alla luce di questa prospettiva, tutto quello che c'è intorno a noi perde quel valore. Perché se noi viviamo davvero i 100 anni che abbiamo in funzione di prepararci ad essere quella sposa che sarà con Lui, che lo aspetta, tutto prende un'altra forma, tutto prende un altro disegno. Questo significa l'amare, il voce del verbo amare di cui stiamo parlando. Non è un amore romantico, non è un amare di emozioni che oggi c'è e domani non c'è e cambia a seconda del tempo. È una scelta. Il nostro amare è una scelta. Il nostro amare Dio con tutto il nostro cuore, forza, anima e mente è una scelta. È una scelta fondata però su di una scelta che è già stata fatta per noi. Di questo stiamo parlando. La sposa viene scelta. Non è la sposa che si sceglie lo sposo. È lo sposo che sceglie la sposa. E noi siamo stati scelti. È di questo l'amore di cui stiamo parlando. E oggi siamo al 21 luglio 2024. Siamo un po' al giro di boa di questo tu non io che i pastori ci hanno lanciato come sfida. Abbiamo alle nostre spalle 29 domeniche con 29 messaggi che ci hanno parlato di tu e non io. E abbiamo davanti a noi 23 domeniche con altri 23 messaggi che ci aspettano, che ci parleranno di tu e non io. Come sta andando? Domanda. Sai, tiriamo un po' le somme oggi. Come stiamo messi a riguardo su questo tu non io? Ci sta entrando un po'? Se non ci entra dopo 29 più 23, 58, 50 che sono le domeniche, 52 domeniche. C'è un problema proprio cognitivo. Tu e non io, abbiamo visto nelle puntate precedenti, significa che tu perdi e lo Spirito Santo vince. Dopo queste 29 domeniche, come sta andando questa partita? Chi sta vincendo? Chi sta perdendo? In questa partita che ti stai giocando, chi sta vincendo e chi sta perdendo? Sapete, quando sei al giro di boa, sei ancora in tempo per recuperare la gara. Non faccio queste domande per deprimerci, faccio queste domande per analizzarci. Perché se ci dobbiamo preparare alle nozze e abbiamo 100 anni da vivere e nessuno di noi qui dentro ne ha 100, facendo il conto, così, su due piedi, 2024 vola così, eh? Ci dobbiamo preparare seriamente a questa storia. Sapete, nelle puntate precedenti, vi faccio un po' un riassunto, abbiamo riflettuto su come ama il tuo prossimo come te stesso, significa vivere tu per primo, sulla tua pelle, questo eterno amore totalizzante. Perché quando tu per primo, sulla tua pelle, sperimenti questo amore eterno totalizzante, tu sarai reso capace di poter amare il tuo prossimo nella misura in cui tu sei stato amato davvero da Gesù. Ma se tu non lo sai come Gesù ti ha amato, perché stai con il piccio ogni giorno e non vuoi lasciarti andare davanti a Lui, come farai veramente ad amare il tuo prossimo nella maniera in cui Lui ti ha amato, se non lo sai come ti ha amato? E quando noi sperimentiamo questo, quel tu e non io cresce e diventa tu e non io. Invece di io, e ci vengono a prendere poi, CTO, e ci rinchiudono. Questa è la verità, è quell'eterno amore totalizzante attraverso di te arriva a toccare e influenzare il tuo prossimo e tu perdi e lo Spirito Santo vince. Sapete, l'Apostolo Paolo ha scritto di sé ai Galati e ad un certo punto al capitolo 2 lui scrive questa lettera e dice questo: io sono stato crocifisso con Cristo. Due punti. Ma ve lo spiego, perché non l'avete capito. Cioè, non vi è entrato nel comprendorio come funziona questa vita che avete scelto. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo significa tu e non io. E questa vita che ora vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questa è una bella sfida. Oggi, nella nostra società contemporanea, che è incentrata sull'egoismo, che è incentrata sull'individualismo anche religioso. Non credete che, siccome abbiamo incontrato Gesù, noi siamo esclusi da questo egoismo e individualismo. A volte facciamo della nostra vita cristiana l'emblema di questa nostra vita vissuta per Gesù. E ci dimentichiamo che noi dobbiamo essere una sposa che si prepara per le nozze del suo sposo che sta tornando. Chi è il nostro prossimo? Lo leggiamo insieme. 1 Corinzi, capitolo 6, dal verso 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Il nostro prossimo sono gli ingiusti che ancora non hanno incontrato Gesù e stanno aspettando. E chi sono questi ingiusti? Non vi illudete, né fornicatori. Chi sono i fornicatori? Sono tutte quelle persone che scelgono di vivere ogni forma di attività sessuale al di fuori del vincolo del matrimonio che Dio ha stabilito. Né fornicatori, né idolatri. Tutti quelli che vivono e nutrono un amore esclusivo o un'ammirazione fanatica per qualcosa o per qualcuno che non sia Dio. Né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Chi sono i sodomiti? Sono coloro che praticano la sodomia. Che cos'è la sodomia? È vivere rapporti sessuali per via anale. Né ladri. Chi sono i ladri? Quelli che si appropriano e si impadroniscono con mezzi e modi illeciti di oggetti, valori e beni che appartengono ad altri. Né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, quelli che si comportano in maniera tale da violare i diritti umani o ledere le persone intorno a loro, oltraggiano, né rapinatori, quelli che con violenza portano via le cose. Nessuno di questi erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Forte. Nella mia mente, quando ho letto la prima parte, ho detto, ha proprio ragione. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati. Siete stati santificati. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quanto potente è il sangue di Cristo Gesù da trasformare la tua storia qualunque sia il tuo punto di partenza. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. Gesù è potente da cambiare il tuo destino. Gesù è potente da salvare la tua anima. Gesù è irresistibile. E ognuno è benvenuto. Ognuno è benvenuto. Puoi arrivare ad incontrare Gesù con la vita che fino a quel momento hai vissuto. Non ha importanza. E magari tu hai vissuto una vita da prostituta, o da casalinga, o da spacciatore, o da omosessuale, o da ladro, o da adultero, o da serial killer, o da malato mentale, o da mafioso, o da pedofilo, o da professionista, o da ateo. Ma voi ci pensate, io sono ateo perché nego che Dio esista, perché la verità è che Dio è eterno e c'è da sempre. Cioè, parentesi, comunque. Cioè gli atei sussistono perché Dio è eterno. Comunque, andiamo avanti. Da buddista, da religioso, da bugiardo, da manipolatore, da disoccupato, da operaio, da tossicodipendente, da bestemmiatore, da bravo ragazzo, da imprenditore, da politico, da milionario, da truffatore. Non ha importanza come arrivi davanti a Gesù. Quello che conta è cosa accade quando rimani alla sua presenza e permetti allo Spirito Santo di trasformare e lavorare dentro di te. Quindi, chi prossimo stiamo, come dire, escludendo a priori? Perché secondo il nostro vademecum del bravo credente, perché ora siamo dei bravi credenti, siamo diventati dei bravi credenti, non è adatto ad incontrare Gesù. E com'è? A quello. Chi stiamo escludendo a priori? Sapete, Gesù a un certo punto ha chiamato a sé la folla e i suoi discepoli in Marco 8 e ha detto a tutta la folla, che forse conteneva tutte queste persone che io ho citato, e ha detto a loro: se uno vuole venire dietro a me, chiunque di voi vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. E che giova infatti all'uomo se guadagna il mondo intero e poi perde la sua anima? Che cosa mai io e te potremmo dare in cambio per la nostra anima, per la salvezza della nostra anima? Puoi arrivare da qualsiasi percorso a Gesù, puoi arrivare da qualsiasi esperienza, puoi arrivare da qualsiasi azione, da qualsiasi abitudine. Seguire Gesù significa rinunciare a te stesso, rinunciare a quello con cui sei appena arrivato davanti a Lui, per scoprire chi sei davvero. Davvero! Perché non sei quello che sei stato fino ad oggi, non sei quello che ti hanno fatto, non sei quello che hai subito, non sei quello che hai commesso. E chi sei? Se dunque uno è in Cristo, 2 Corinzi, l'Apostolo Paolo scrive a loro e dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Ecco chi sei. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Dì alla persona accanto a te: le cose vecchie sono passate. Guardala negli occhi, a casa, vai davanti allo specchio, ditelo da solo, come faccio io. Di nuovo: sei tutto nuovo. Con un po' di entusiasmo voglio che glielo dici, che lo vedi che è nuovo, diglielo a tua moglie. Sei tutto nuovo, sei tutta nuova. Guardala bene adesso e di: lo riconosci? Diglielo. Voi pensate che quando facciamo questa cosa durante il messaggio sia una cosa per ridere? Ma questa è una cosa seria. Perché quante volte voi avete letto questi versi che io vi ho citato? Cioè, voglio dire, non è che oggi vi sto facendo scoprire un nuovo pianeta, una nuova galassia. Stiamo scoprendo che l'acqua calda è davvero calda. Quindi laviamoci. Perché se l'acqua calda rimane calda, ma non ce la buttiamo addosso, che è calda a fare? Che paghiamo a fare il gas per riscaldarla. Dì alla persona accanto a te: anche se è un maschietto, sei una sposa bellissima. Efesini 5, perché volenti o nolente, ora, di tante le cose che accadono, Noi siamo la sposa, perché siamo la Chiesa. Quindi non stai identificando la persona come una femminuccia, stai identificando la persona come una persona santa che Dio si è scelto. Efesini 5 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Ti devi lavare con l'acqua della parola. E mia nonna, quando ho iniziato a venire in chiesa, mi diceva sempre: quelli di Modugno ti hanno fatto il lavaggio del cervello. E io dicevo: nonna, quant'acqua sporca è uscita, tu non ne hai idea proprio, dobbiamo ancora continuare a lavare qua il fatto. Purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire quando arriverà lui, il giorno in cui ci sposeremo insieme nelle nozze dell'agnello, davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Sei una sposa gloriosa, preparati. Preparati negli anni che hai davanti a te. E sapete, non so se a voi capita, però tante volte io mi trovo ad andare da Gesù e dirgli: Signore, ma perché nella mia vita tutte queste cose sono successe? Cioè, volevo tanto che la mia vita fosse andata un po' diversamente, perché sarebbe stato molto meglio. E ultimamente ero in una pausa pranzo al lavoro, il mio ufficio è sopra una terrazza, diciamo, tipo parco, e quindi sono sceso su questa terrazza nella mia pausa pranzo e ho scelto di digiunare e pregare e stare con Dio. E stavo parlando di tante cose, ne ho parlato con papà qualche settimana fa di questa cosa. E tra le varie cose che io mi portavo nel mio zainetto, che parlavo con lui, dicevo: ma perché io ho dovuto vivere questa cosa? Che comunque mi ha segnato. Perché ho dovuto provare questa cosa? Che comunque ancora a volte ricordo. Perché tutto questo? Mi sono ricordato del fatto che i miei genitori, quando sono rimasti incinta di me, non lo sapevano nemmeno, perché erano semplicemente fidanzati. E mamma è rimasta in attesa. E quando hanno scoperto di essere in attesa, si sono spaventati, perché erano molto giovani. E sono venuti in chiesa. E hanno accettato Gesù. E Gesù gli ha suggerito di sposarsi, di avere la forza di poterlo fare, di mantenere questa gravidanza, di mantenere questo bambino e di costruire una famiglia. E Gesù me l'ha voluto ricordare, perché tante volte, questo è che io devo perdere, lo Spirito Santo deve vincere, perché tante volte io non mi piaccio e io non sono felice di me. E Gesù mi ha detto: se tu sei vivo è perché io ti ho pensato. E forse nessuno l'aveva fatto, forse nessuno aveva scelto un giorno, come io ho fatto con mia moglie, di voler avere dei figli e abbiamo iniziato a provare ad avere dei bambini. Forse nessuno ha avuto il desiderio di te prima che tu ci potessi essere, ma io l'ho avuto. E tu sei vivo perché la gloria è mia e non è tua e non è dei tuoi genitori e non è di nessuno, è solo mia. E forse la tua vita è andata così perché la gloria sua è sua e non è tua, e tu sei qui oggi perché lui ha la gloria e tu sei una sposa gloriosa. Sei una sposa, abbiamo letto, senza macchia. Preparati, preparati, lavati con l'acqua della sua parola. Non hai bisogno di quel peccato per essere felice. Non hai bisogno di quella dipendenza dove ti rifugi per scappare e trovare pace, per avere pace. Perché Dio è pace e ci lascia la sua pace, non come il mondo ce la dà. Non hai bisogno di tutta questa sporcizia che continui a trascinarti da come sei arrivato davanti a Lui per evadere la tua vita e avere quel momento in cui non ti interessa più di niente e di nessuno, perché ci sono troppe pressioni che si attanagliano sopra di te. Rimuovi l'ipocrisia che c'è in te. Basta ad avere un piede in due scarpe. Tali eravamo, eravamo, eravamo alcuni di noi, ma siamo stati lavati, ma siamo stati smacchiati. Il vestito che abbiamo cantato nel primo canto, che lui ci ha dato nuovo, è un vestito senza macchia. Basta a sporcarlo, basta a macchiarlo. Sei una sposa gloriosa, sei una sposa senza macchia, sei una sposa senza ruga o simili difetti. Preparati! Cosa sono le rughe? Le rughe sono quei solchi che segnano il nostro viso e alterano il nostro aspetto, ricordandoci le conseguenze del tempo che passa, delle cose che ci hanno segnato, delle cose che ci hanno ferito, traumatizzato, deluso, amareggiato, delle cose che ci hanno violato, offeso, scartato, abusato, giudicato. Cosa segna ancora oggi la tua vita? Quali sono le rughe delle cose vecchie che sono passate che ti stai portando ancora oggi nel tuo presente? Tante volte ci vedo un po' così. Ce ne andiamo in giro così. Si legge? Io sono fatto così. Sapessi la mia vita. E camminiamo come se fossimo difettati. Non fare il difettato. Basta a fare il difettato, perché non lo sei. Sei stato crocifisso con Cristo. Non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Giusto? Quindi, a Bari si dice avast. Piuttosto, te ne puoi andare in giro in maniera diversa. Giusto? Devi aggiustarlo a volte, che ti sfugge un po' il concetto, ci sfugge un po' dalla mente. Forse sei chi Gesù dice di te. Forse sei quello che Lui ha preparato per te. E chi Gesù dice che tu sei? Dice che sei una sposa, e lo abbiamo letto, santa e irreprensibile. Preparati. Siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Abbiamo letto anche, tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato, ti ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Sei un ambasciatore per Cristo, sei chi Gesù dice di te. Come se Dio esortasse per mezzo nostro, come se tutto il mondo intorno che non parteciperà a queste nozze, che non sa che tale poteva essere lui, ti guarda e ti vede bellissima e dice: mo, io devo andare a questa sposa qua, mi devo far avere l'invito, non posso perdermi il matrimonio dell'eternità, davvero. Questo significa che noi esortiamo, che Dio esorta per il nostro mezzo. vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Riconciliati con Dio oggi. Non hai bisogno di truccarti per nascondere le rughe. È Lui che le toglie. Non hai bisogno di metterti un bel vestito che possa nascondere la sporcizia che c'è dentro di te. Non hai bisogno di simulare, di essere qualcuno che non sei. Riconciliati con Dio ora. Arrenditi allo Spirito Santo davvero. Vivi sulla tua pelle il suo eterno amore totalizzante. Non soffocare quel grido che c'è nel tuo cuore. Tutti hanno un grido nel loro cuore. Tutti. Lascia che quel grido arrivi ai piedi della croce di Cristo. Lascialo andare, lascialo arrivare lì. Riconciliati con Dio. Riconciliamoci con Dio questa mattina, in questo momento. Siamo santi, non siamo perfetti, ma siamo santi e irreprensibili. Siamo stati appartati per vivere nella pienezza dello Spirito Santo che opera in noi con potenza. Siamo irreprensibili perché lo Spirito Santo opera in noi. Siamo irreprensibili perché lo Spirito Santo opera in noi pace, amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Per questo siamo irreprensibili. E sapete, il profeta Isaia, prima che Gesù potesse arrivare, nel capitolo 53 del suo libro, dove profetizza quello che avverrà, descrive in maniera inequivocabile quello che Gesù ha vissuto sulla croce e quello che è stato il suo sacrificio. E poi nel verso 54, scusatemi, nel capitolo 54, al verso 5, continua a profetizzare e dice questo al popolo di Israele che si era appartato. Dice questo: poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Da sempre. Lui è il nostro sposo. Da prima che noi fossimo la sua sposa, Lui è il nostro sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio su tutta la terra. E glielo ha detto quando lui era solo il Dio del popolo di Israele, perché da sempre lui sarebbe stato il Dio di tutti i popoli, di tutte le nazioni e di tutte le tribù, su un nuovo cielo e su una nuova terra dove per sempre avrebbe vissuto con noi. E sapete, gli angeli nel cielo in questo momento stanno dichiarando che Lui è santo, e lo dichiarano e non si fermano, e in maniera eterna dichiarano che Lui è santo. E intenzionalmente possiamo alzarci in piedi, invito la band a salire sul palco, stiamo per dichiarare le parole di questo canto che intenzionalmente stiamo cantando adesso, perché io vorrei, lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore che tu questa mattina possa fermarti e immaginare quel giorno in cui tu sarai davanti a Lui. E io me lo immagino e mi sono fatto questa idea, che quel giorno tutti i miei punti interrogativi non avranno più valore, perché io sarò davanti all'Eterno degli eserciti. E non avrà importanza tutto quello che ho pensato fino a quel momento. Avrà importanza che sono davanti a Lui. Avrà importanza che la mia attenzione sarà su di Lui e solo su di Lui, perché sarà così glorioso, così grande, così maestoso, che sarà solo Lui. E mi sarò dimenticato dei 100 anni e delle sofferenze che ho vissuto per prepararmi ad essere davanti a Lui. E stiamo per cantare che 1000 generazioni sono prostrate davanti a Lui per dichiarare che Lui è santo, che tutti quelli che ci sono stati prima di noi, che tutti quelli che arriveranno dopo di noi, si troveranno davanti a Lui e dichiareranno che Lui è santo, e dichiareranno che il suo nome è potente, che domina su troni, su potenze, che il suo nome è sopra ogni cosa. E io voglio invitare noi questa mattina a riconciliarci con Dio. Riconciliati con Lui adesso. Chiudi i tuoi occhi, inizia a dichiarare queste parole come se fossero la tua dichiarazione su quello che di nuovo Lui ha fatto in te, perché quello che di nuovo Lui ha fatto in te è oggi e tu lo puoi afferrare. Dichiariamolo insieme, Chiesa.